aderire al sistema. A che serve parlare, votare o manifestare? Bisogna colpire nel cuore il sistema. Ho scelto la clandestinità, gioco meglio in questo ruolo. Io son d'un'altra razza, son bombarò. E invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? CP2 o P38? E invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? NSI o P38? Me ne prego di morire! Fatti vivere a premura! Pregando a braccio teso per un'altra dittatura! Far carriera in banca, aderire al sistema. A che serve parlare, votare o manifestare? Bisogna colpire nel cuore il sistema. Ho scelto la clandestinità, gioco meglio in questo ruolo. Io son d'un'altra razza, son bombarò. Invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? CP2 o P38? Invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? NSI o P38? Brigata Rossa. Brigata Rossa, hanno telefonato alle 10:10 alla... Lei deve comandare la famiglia, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Non esce più di casa la pubblica opinione per guardarsi condannare le stragi in televisione. Attore inconsapevole di una forza del potere, per l'ideale muori con un cazzo nel sedere. Così potere sfrutta il tuo malcontento, le molotov per strada, lo spumante in Parlamento. Poi l'ordine ritorna grazie alla polizia, lo Stato crea i fantasmi per poi mandarli via. E invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? CP2 o P38? Invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? NSI o P38?